Quando affrontiamo delle persone sconosciute o anche conosciute, ci piacerebbe sapere che cosa davvero pensano, ma è impossibile. Questo lo sa solamente Dio. Tuttavia c'è qualcosa che possiamo conoscere. Se tu senti una persona che abitualmente c'ha sempre da dire degli altri, una persona che critica tutto e tutti, allora stai certo che quella lì è una persona falsa e che domani criticherà anche te. Come fai a dire, Don Ambrogio, che certamente quella è una persona falsa? È perché la dice il Vangelo oggi. Se tu dici a tuo fratello, lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo c'è la trave, sei un ipocrita. Ipocrita vuol dire falso. Togli prima la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene. Cari amici, questa è una realtà che noi incontriamo tutti i giorni, sia nel colloquio tra donne all'angolo della strada, sia sui giornali, sia sui messaggini che ti arrivano sul cellulare. Che tristezza vedere gente che critica il Papa abitualmente, sentire sacerdoti che giudicano i loro simili, preti, o addirittura il loro vescovo. Sono tutti falsi, sono tutti ipocriti, stando alla parola del Vangelo, no? Proviamo a ragionare un istante. Chi critica un altro, voglio dire, con una certa abitudine, non è che magari ti scappa una volta sola, se è una volta che ti scappa, pazienza, insomma. Ma uno che ne ha sempre da dire, uno che critica tutto e tutti, io ti chiedo, ma ti sta così a cuore quella persona che tu critichi, che a te dispiace che sbagli? Oppure pensi che tu hai la verità? Allora, se ti spiace che quella persona sbagli, se tu sei sicuro che hai la verità, scrivigli, telefonagli e digli: guarda fratello, io ti voglio così bene, mi dispiace che tu sbagli, che ti voglio dire come dovresti fare per fare le cose giuste. No, noi questo lo diciamo alle spalle, noi questo lo facciamo circolare in maniera quasi anonima, diglielo personalmente, ma non lo fai perché pensi che perdi punteggio. Un prete dirlo al suo vescovo, no, va giù di classifica. Dirlo alla tua nuora, alla tua suocera, stai fresco. Allora taci, o lo dici direttamente, o taci. Oppure c'è un'altra strada. Vai davanti al tabernacolo e dillo a Gesù: Gesù, guarda, mi spiace proprio che quella persona, che quel papa, che il mio parroco, che la mia nuora, che la mia suocera sbaglino, e siccome gli voglio tanto bene, prego per loro. Io non dimentico mai una frase che ho imparato. Ci sono certe frasi che sono come degli slogan. Per esempio, l'altro giorno ho predicato e so che ha fatto tanto bene, è piaciuta tanto la frase "occuparsi sì, preoccuparsi no". E ce n'è un'altra che mi piace molto e che dice: quando non puoi entrare in un cuore, prega, entrerà la tua preghiera.